Ecco perché oggi voi siete contenti. Vorrei essere pittore, fotografo e ricopiare, fissare la bellezza del vostro volto. È la bellezza del volto dei bambini. Ho asciugato delle lacrime io oggi e ieri. E il vostro volto è diventato, è bellissimo, è diventato come quello dei bimbi. Per questo noi ci troviamo qui come nel cenacolo. Ci è stato aperto l'ingresso al regno di Dio, che è vietato ai presuntuosi, ai tronfi, ai superbi, ai megalomani, a coloro che sono schiavi della grandeur. Semplici siete stati oggi. Chi è venuto a piangere nelle mie mani, nelle mie braccia, certamente è stato piccolo, si è tornati indietro, come da bambini si piangeva, casomai nascondendoci tra le braccia della mamma o del babbo. Ora sentiamo che lo Spirito di Dio ci pervade. Siamo pieni di Spirito Santo, quello Spirito per cui Dio è Padre e Dio è Figlio. Lo Spirito Santo, anima della Chiesa, lo Spirito Santo, forgiatore di santi, è qui per forgiare di voi, di ciascuno di voi, un santo, altrettanti santi. Conservate il vostro cuore da fanciullo. Non montatevi la testa quando le cose vanno troppo bene e non scoraggiatevi quando le cose vanno male, secondo il vostro giudizio. Abbiate fiducia. Siate come piccoli sulle braccia del loro padre. Per un bimbino, che il papà lo metta sul braccio sinistro o lo metta sul braccio destro, interessa poco al bambino essere sul braccio destro o sul braccio sinistro, gli importa suo padre, gli importa essere su quelle braccia. Fidiamoci del Signore. Signore, la tua parola mi riempie di gioia. Sì, è vero, ci riempie di gioia la parola di Dio perché siamo tornati fanciulli, golosi, cupidi della parola di Dio che incanta. La parola di Dio incanta. Non sembrate tutti incantati qui, anche in questo momento? Chi ci incanta così? Chi ci trasfigura in bellezza se non Lui? Il Signore lo sentiamo. In questo misterioso silenzio trova spiegazione il mistero della nostra piccola persona. Spiegazione nel mistero stesso di Dio. Qui siamo avvolti nel mistero di Dio. Gloria, gloria abbiamo detto. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. E pace qui, in terra, per noi che siamo tutti uomini di buona volontà.